Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Un tormentone che dilaga nei dibattiti e nei convegni che ormai si svolgono a decine in Italia sui temi della sostenibilità energetica è legato alla scarsa abilità dell'Italia nell'accedere ai fondi europei, soprattutto per quanto concerne quegli interventi finalizzati a rendere più efficienti le amministrazioni pubbliche stesse. Gli scogli su cui tipicamente si incagliano le navi cariche di buone intenzioni delle amministrazioni locali sono poi sempre gli stessi. Il punto è che gran parte delle pubbliche amministrazioni, soprattutto quelle più piccole come i comuni, non hanno né le capacità tecniche per elaborare progetti solidi dal punto di vista appunto tecnico, quindi economico ed energetico, né dimensioni sufficienti a mettere insieme interventi per un montante superiore a cifre come i mitici 30 milioni di euro, che sono la soglia della BEI, la Banca Europea degli Investimenti, cifre elevate al di sotto delle quali insomma l'Europa non si accorge neanche che esistete. Vabbè, in questo mare di lacrime, molte delle quali per la verità di coccodrillo, c'è chi invece è riuscito a mettere a punto una ricetta che funziona. È sicuramente il caso della provincia di Modena e ve lo vogliamo raccontare con il contributo di Pier Gabriele Andreoli, che è direttore dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena. Buonasera Andreoli. Buonasera a tutti. Allora, dunque, questa ricetta che ha diciamo 3 o 4 ingredienti, c'è però un elemento di innesco che è un progetto europeo che si chiama Progetto Elena. Vogliamo appunto spiegare di che cosa si tratta, ma prima diciamo questo Progetto Elena ad oggi che risultati concreti ha partorito. È iniziato intorno al 2010, giusto? E giusto. Avete un consuntivo a fine 2013. E avevamo un obiettivo molto importante di 50 milioni di euro da raggiungere, è stato forzosamente ridotto dal terremoto e al momento abbiamo comunque raggiunto un obiettivo di circa 20 milioni di euro investiti in riqualificazione energetica divisa in sostituzione di lampade ad alta efficienza per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, circa 4 megawatt di fotovoltaico sugli edifici e poi diciamo una buona parte di edifici dell'amministrazione provinciale riqualificati da un punto di vista impiantistico e di involucro. Diceva 20 milioni al posto di 50 previsti, perché in realtà metà provincia è stata colpita molto duramente dal terremoto, per cui c'era tantissimi progetti che avevate previsto poi sono saltati. Esatto. Ecco, dicevamo, a innescare comunque tutte queste cose c'è stato un finanziamento che voi avete ottenuto grazie appunto al cosiddetto progetto Elena. Ci spieghi brevemente di che cosa si tratta? Elena intanto è un acronimo, European Local Energy Assistance, sì. È uno strumento finanziario della Banca Europea degli Investimenti. Vengono riconosciuti dei progetti, quindi diciamo finanziate tutte quelle operazioni che servono a mettere in grado un comune poi di realizzare le opere, quindi fondamentalmente la preparazione delle gare, la preparazione tecnica, insomma dei contenuti che poi vanno in gara, quindi è proprio come dire l'accensione del fiammifero, no, che deve dar fuoco alle polveri degli investimenti. Sono tutte queste attività che l'amministrazione pubblica dovrebbe essere in grado di fare per indire i bandi e quant'altro e attivare anche le risorse private. E la BEI dà il 90% delle risorse necessarie a fare questa operazione a fondo perduto, il 10% ce le mette l'amministrazione locale, quindi questa quota è regalata diciamo dall'Europa, no? Sì, questa è regalata a fronte appunto di un buon piano economico finanziario, di un buon progetto iniziale, quindi all'inizio è molto importante avere conoscere il territorio, conoscere che necessità ci sono. E da questo punto di vista lei sostanzialmente sta dicendo che ci vuole già una buona conoscenza del territorio per poter presentare un progetto credibile e a quel punto avere accesso ai fondi Elena. No, è chiaro che un po' di impegno iniziale ci vuole, no? L'Europa comunque un po' ha capito, no, che le pubbliche amministrazioni fanno fatica a mettere insieme progetti così, così grossi, così spessi. Ci sono in arrivo, vero, anche come dire, degli strumenti un po' più agili? Sì, ci sono già in atto, sono degli Elena più piccoli, per esempio sì. Progetti MLEI che hanno una soglia minima di 6 milioni di euro. E, in questo caso credo che abbiano fatto tesoro anche delle nostre un po' richieste e insomma dei problemi che noi abbiamo portato, essendo stati un po' degli apripista. Dunque domani continuiamo a parlare delle vostre attività, perché affrontiamo l'altro aspetto altrettanto importante, cioè quello di trovare poi dei privati che i soldi ce li mettono. quali modalità funzionano e quali no. Per intanto grazie Andreoli. Grazie, buona serata. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.